con me, ti porterò lontano perché la vita è così bella, lo sai, e vedrai che troverò la strada per stare insieme a te. Insieme a te. Every night, every day, there's a way to be loved. And when the sun becomes, I feel you in my mind. Unforgettable eyes. Every night, every day, we come together. The music set you free. Stasera so che mi vuoi. Vieni con me, ti porterò lontano perché la vita è così bella, lo sai. E vedrai che troverò la strada per stare insieme. Vieni con me, ti porterò lontano perché così bella, lo sai, e vedrai che troverò la strada per stare insieme a te. Così bella, lo sai, e vedrai che troverò la strada per stare insieme a te.